Cialtroni nello spazio, puntata numero X di questo mercoledì 28 febbraio 2007. La trasmissione è la trasmissione di approfondimento tecnologico informatico sociale di Radio Onda d'Urto. Analizziamo le nuove tecnologie per voi. Poi proverai a dirlo anche con la voce un po' più alta. Salutiamo anche Alessandro al mixer. Ciao Ale. Ciao a tutti. E salutiamo l'eminenza grigia, il nostro Carlos, che ci ascolta sempre da casa e ci corregge e ci controlla. Ciao Carlo. Puntata come sempre ricca di news, spulciate un po' qua e là dai vari siti che si occupano di informatica, anche dalle notizie che arrivano ogni tanto faticosamente sui media. Di questi giorni si è parlato un po' anche sui giornali italiani del famoso portale italia.it, e mentre sui giornali un po' ne parlavano, diciamo così, senza particolari critiche, la rete invece spopolato nei commenti dissacranti in alcuni punti nei confronti di questa nuova di questo nuovo portale. Ne parleremo nei dettagli, però Ale, ci anticipi un po' anche la scaletta. Allora, andiamo a vedere oggi, appunto, parleremo di questo portale, della nuova versione delle Creative Commons, che presenta alcune novità soprattutto legali, però interessanti. E alcune news riguardo ai DVD protetti e un multone che si è beccata Microsoft per una violazione di un brevetto molto popolare, tra l'altro. Ah, da dove vogliamo iniziare? Iniziamo da arriva da italia.it, che è stato preannunciato la settimana scorsa durante la Borsa Italiana del Turismo, una delle, diciamo così, manifestazioni più importanti per quanto riguarda il la fashion del turismo italiano, che si tiene a Milano ogni anno. È stato presentato in pompa magna dal ministro dei beni culturali Francesco Rutelli, insieme a altri, tra cui Ermete. Vabbè, il voto di fiducia che dovrebbe arrivare oggi pomeriggio sembra, insomma, che sia abbastanza scontato. Comunque ha raggiunto anche, raccolto i consensi di Ermete Realacci, che è un parlamentare e presidente della Fondazione per le Qualità Italiane. Diciamo che mentre ha fatto tutto, di che cosa si tratta? Innanzitutto Italia IT, un progetto di cui si è parlato per alcuni anni, che dovrebbe diventare il portalone del turismo in Italia, con un sacco di informazioni, entrare e digitare anche comuni abbastanza piccoli. Prima, personalmente, così per curiosità, io e Marco abbiamo cercato due piccoli comuni della provincia di Brescia, ci abbiamo trovato qualche notiziola, in particolare l'indirizzo del comune, se non mi sbaglio, esatto, in entrambi i casi, e uno dei o due alberghi. Quindi, insomma, per chi vuole viaggiare in Italia potrebbe essere una via, diciamo così, comoda, anche se sicuramente non completa e non esaustiva di quelli che sono informazioni che possono interessare ai turisti, ma al di là dei contenuti, probabilmente, esatto, andiamo a vedere un attimo che i fischi maggiori li possiamo dare rispetto alla realizzazione di questo portale. Iniziamo da quanto è costato, Marco. Esatto, il problema grosso è il costo di questo portale. È costato 45 milioni di euro, che sono decisamente una bella cifretta. Il solo logo, che è una specie di I col puntino sopra e poi una specie di dente verde che sembra una T, scritto IT, è costato solo quello 100.000 euro. E beh, ma è inclusa anche la registrazione del marchio, dai Marco. Marchio Italia, ah certo, perché adesso magari ci proteggiamo da una nazione che costa circa 5.000 euro. No, ma come se dimostra tutta la sua ignoranza. Adesso potremmo fare la maglietta con IT. Wow, io ho un dente verde, lo metto sulla maglietta. E niente, appunto, 21 milioni 45... sono andati alle regioni, 4 ai contenuti centralizzati, 7,8 alla piattaforma creata da IBM e altri soggetti tecnologici. Ecco come si sono suddivisi questi 45 milioni per i più curiosi. Uno può dire, cavoli, però inserire 8.000, 10.000, quanti sono i comuni italiani, informazioni su tutti questi comuni. Beh sì, potrebbe magari richiedere un sacco di tempo. Un sacco di tempo. Infatti ci è voluto un po' un sacco di tempo, nel senso che ci hanno messo, se non sbaglio... 2 anni passa? No, di più, almeno 4-5 anni che si parla di questo portalone. Poi se andiamo a vedere, in realtà alcuni dei comuni riportano esattamente le stesse informazioni dell'Istituto Geografico De Agostini, eccetera. Che sono semplicemente state copiate e incollate dall'altra parte. Quindi... Esatto, a meno che la De Agostini non si sia presa i 21 milioni di euro per vendere qualcosa che aveva già fatto. Esatto. Anche questo. E da subito, dall'uscita del sito, a parte gli elogi e i paroloni ufficiali di Rutelli e diciamo della politica, tutto il mondo tecnologico ha cominciato a lamentarsi notevolmente di questo sito, perché a parte che è costato un sacco di soldi, ma anche le tecnologie utilizzate per questo sito sono, vabbè, diciamo decisamente vecchie, utilizzano dei sistemi di generazione delle pagine un po' vecchiotti e pieno di flash pesantissimi e assolutamente inutili. Per esempio, l'entrata richiede una animazione in flash che dura una qualche decina di secondo ed è difficile anche da saltare di primo acchito. E in realtà lo stanno modificando in questi giorni quel sito lì, perché dalla prima versione in cui non si poteva saltare il flash iniziale, adesso perlomeno uno può scavalcare questa simpaticissimo e inutile insieme di puntini che appaiono formale d'Italia. Una delle cose divertenti. Però esatto, il problema questo talmente tante che facciamo fatica anche a darci un ordine. Vai tu allora, dai. Vabbè, una delle cose divertenti è che ne vanno talmente orgogliosi che dalla pagina Chi siamo hanno tolto i loro nomi, i realizzatori, esatto, di questo sito, perché si sono veramente vergognati. Qualche giorno fa c'erano tutti i nomi, i vari caporedattori, i responsabili e quant'altro, e in questi giorni invece è sparito con dei nomi generici, e appunto per evitare di far girare troppo la notizia su chi si sia intascato questi 45 milioni di euro. Cioè poi... Un'altra cosa che ci lascia molto perplessi è che questo sito è un sito fatto alla vecchia, cioè non c'è l'interattività con gli utenti, non è che gli utenti possono andare dentro e dire: ah, io in questa bed and breakfast mi sono trovato benissimo, ho speso poco e ve lo consiglio, oppure dire: questo posto qua fa schifo e ci sono i topi che ti camminano la notte nel letto. No, non c'è assolutamente niente di questa possibile interattività, è tutto demandato a un sito alla vecchia dove c'è qualcuno che butta dentro i contenuti e le nuove tecnologie di oggi non vengono assolutamente utilizzate per, appunto, per avere un servizio più migliore dal punto di vista per appunto il fruitore del sito, che di vedere che qualcuno pagato dalla bed and breakfast che ha pagato di più possa appunto inserire delle informazioni in realtà non vere su una particolare entità commerciale che possa esserci in Italia. Cioè, queste cose qua sono robe un attimino vecchie. In realtà la cosa più probabile è che questo sito non riceverà un gran numero di informazioni aggiuntive rispetto a quelle che ha adesso, nel senso che come sempre capita nelle amministrazioni pubbliche, il software in generale e quindi anche i siti web, i vari sistemi di software vengono fatti, comprati e basta, e poi non esiste una forma di manutenzione eccetera. In questo caso almeno è prevista una fase di debug già pagata. Io per la metà dei soldi che è costato lo aggiorno a vita, nel senso, cioè, mi rendo disponibile. Però questa, comunque, no, vabbè, al di là di questo ci sono un sacco di altri problemi, per esempio la legge sull'accessibilità, non è accessibile questo sito perché persone che abbiano problemi di visione che abbiano... In realtà questa cosa l'abbiamo trovata molto su internet, abbiamo fatto delle verifiche noi e non ci sembra vero, non so se il sito è stato cambiato appunto in questi giorni, quindi non dirla questa cosa. Zamba. L'abbiamo appena detta, però all'inizio almeno leggiamo, allora, non l'abbiamo detto noi, l'ha detto Andrea Martinez, che dice che il portale italia.it, soggetto alla vigente normativa sull'accessibilità, pur essendo costato ai contribuenti uno sproposito, non è conforme ai requisiti di legge, lo dicono anche loro, minimizzano l'ampiezza dei problemi che non riguardano singole sezioni ma tutte le pagine, per esempio la linearizzabilità dei contenuti di molte tabelle, mancanza di semantica, non rispetto di testo sfondo, peraltro realizzate con tecniche obsolete, e questo almeno veniva scritto venerdì scorso, quando il portale, poi ricordiamo, stanno subendo degli aggiornamenti per fortuna, grazie anche a tutte le critiche che sono piovute in rete. E di questi giorni è la notizia che la Microsoft si è beccato una mega multa da 1,52 miliardi di dollari per la violazione di alcuni brevetti che sembrerebbero appartenere alla Alcatel. La Alcatel era quella che insieme all'istituto Fraunhofer avevano inizialmente creato il formato MP3 dei file compressi per la musica. E la Microsoft da sempre dice di aver pagato le licenze per utilizzare queste tecnologie, e però di recente appunto ha perso una battaglia legale contro appunto la Alcatel, che dichiara che queste tecnologie sono state ideate e brevettate dalla, appunto dalla Alcatel, e quindi il tribunale gli ha fatto pagare una multa da, appunto alla Microsoft, da 1,52 miliardi di dollari. Li farà pagare, non è ancora passata all'ultimo grado di giudizio. La Microsoft ovviamente ha detto che farà ricorso in appello appunto su questa sentenza, grazie. Ed è interessante soprattutto perché questo potrebbe avere delle ricadute notevoli se la sentenza venisse confermata anche su altri grossi colossi dell'informatica che hanno acquistato la licenza nello stesso modo, ovvero l'hanno acquistata dalla Fraunhofer Institute, che è stato il realizzatore del sistema MP3, diciamo, e a quanto pare per un difetto di d'accordo, non ci sono i dettagli comunque, per un difetto d'accordo tra il committente Bell, poi diventato Alcatel, e questa Fraunhofer Institute, in realtà i diritti sono della Alcatel, e Fraunhofer Institute non aveva sostanzialmente il diritto di rivendere questa licenza. Per questo Microsoft si trova a pagare. La cosa interessante della notizia è un po' di implicazioni, in effetti. Sì, sì, in realtà doveva venire confermata e bisognerà entrare nei dettagli un po'. La cosa è importante, al di là della questione in sé del brevetto, che sono più questioni aziendali, cioè, tendenzialmente i grossi multinazionali si fanno ogni 3x2 la guerra su qualche brevetto. Interessante perché l'MP3 comunque è un formato estremamente utilizzato, è quello che ha portato la musica in internet sostanzialmente, e estremamente utilizzato anche nei vari apparati hardware, in lettori da iTunes a quant'altro. E le ricadute potrebbero essere notevoli nel mondo open source, per tagliare la testa al toro, già da anni, sostanzialmente da sempre, da quando l'MP3 è entrato nel mondo open source, esiste una versione open source del protocollo di encodatura che si chiama LAME, oppure meglio ancora esiste un formato migliore che si chiama OGG, che è completamente aperto, che non ha questo tipo di problemi. Il problema è che, essendo però il formato dell'MP3 un formato chiuso e di proprietà della Fraunhofer, almeno fino a poco tempo fa si pensava si fosse proprietà della Fraunhofer, quasi tutte le distribuzioni Linux non includevano e non includono tutt'oggi i codec per l'MP3, che vengono di solito distribuiti a parte. Scaricandoli da internet al posto che darli all'interno della distribuzione. Questo perché le distribuzioni commerciali che volevano integrare i codec MP3 all'interno della distribuzione dovevano pagare una cifra di tipo 30.000 euro una tantum alla Fraunhofer per avere appunto il permesso di inserire dei codec MP3 all'interno delle loro distribuzioni. Quindi anche le distribuzioni Linux forse potrebbero essere incasinate in questo momento, in quanto loro hanno pagato verso la Fraunhofer e non verso l'Alcatel, mi sfuggiva il nome, che sembra essere il proprietario del brevetto al momento. Facciamo uno stacco musicale. Allora andiamo a sentirci un brano preso da yamendo.com, si chiamano Amnis, il gruppo, fanno un dub misto un po' a rock e un po' drum and bass, insomma una cosa interessante, una mistura interessante, poco cantato. E questi erano i Amnis, sempre da yamendo.com. Allora, prendiamo spunto da una notizia italiana. Allora, è stato arrestato, o meglio, riconosciuto colpevole dell'utilizzo di musica illegale e duplicata un DJ trentenne italiano. Vabbè, al di là di questo, la notizia interessante: il DJ è stato condannato a 1800 euro di multa e 4 mesi di reclusione, che ovviamente non ha scontato, perché aveva utilizzato dei CD senza bollino SIAE durante una performance in un locale. Parte di questi CD erano duplicati, parte erano pervenuti a lui attraverso il circuito non commerciale, quindi sostanzialmente il passamano dagli autori, eccetera. La SIAE ha comunque vinto questa causa, e addirittura tramite i suoi avvocati il DJ aveva chiesto di poter far visionare le copie originali che lui possedeva a casa. Questa richiesta non è stata accolta, e in sostanza, anche se lui aveva copie legalmente detenute, non è stato possibile dimostrarlo. E cioè, sostanzialmente la SIAE ha deciso che lui doveva andare in giro con qualche migliaia di euro in tasca, perché i CD originali ovviamente non hanno un costo indifferente, e con il lavoro che fa ovviamente gli serviva. E questo, a ricordare, l'articolo preso da, appunto, sempre da Punto Informatico, ricorda anche una petizione che i DJ avevano fatto alla SIAE per una normativa, alla SIAE e al governo, per una normativa che fosse più conforme, più consona al tipo di utilizzo che loro fanno della musica. Chiaramente la petizione già c'era da un paio di anni senza risposta. A rispondere ai DJ è arrivata invece la nuova Creative Commons, o meglio, non solo ai DJ. Comunque, ricordiamo cos'è la Creative Commons: sono un pacchetto di licenze scritte negli Stati Uniti ormai più di un anno fa, che sono arrivate alla versione numero 3. Sono licenze che permettono di registrare i diritti d'autore su un'opera, lasciando libertà di utilizzarla entro i limiti stabiliti dall'autore. In particolare è possibile lasciare la possibilità di utilizzo senza scopo di lucro, la possibilità di modificare l'opera, quindi di utilizzarla per fare remix, e qui appunto la cosa più interessante per i DJ, la possibilità di pubblicarla, di condividerla con altri, eccetera. Le novità della licenza numero 3 sono sostanzialmente due o tre. La principale è la trasformazione della licenza americana, o meglio l'uscita di una nuova Creative Commons generica, ovvero che non fa riferimento a nessun contesto legislativo particolare, come era prima quello degli Stati Uniti, ma fa riferimento a alcune convenzioni internazionali che normano il diritto d'autore, in particolare la Convenzione di Berna, la Convenzione di Roma e il Trattato sul Copyright dell'Organizzazione Mondiale del Commercio del 96 e relativi trattati a latere. La cosa è piuttosto importante perché trasforma la licenza, la astrae dal contesto giuridico americano, che comunque è quello a cui fa riferimento poi tutta la legislazione mondiale sostanzialmente, comunque lo astrae e riscrive la licenza proprio nei termini di queste convenzioni internazionali. Questo per rendere la traduzione, traduzione chiaramente non solo letterale ma legale, di queste licenze in vari altri paesi. Ricordiamo che in Italia esiste già questa traduzione, come esiste in un'altra trentina di paesi. Comunque questo servirà ad aumentare la solidità della licenza anche a livello internazionale, cosa estremamente importante in questo periodo. Altra cosa, è stato armonizzata dei termini con cui vengono definiti i diritti morali. Adesso, vabbè, senza entrare nel dettaglio, che è una cosa un po' cavillosa, è stata migliorata la chiarezza sul rapporto tra autore e utilizzatore dell'opera, E ultima cosa, ma molto importante, è stata espressamente scritta l'incompatibilità delle licenze con il sistema DRM, con qualsiasi sistema DRM. Durante il dibattito che ha portato alla creazione di questa licenza, ricordiamo che le licenze sostanzialmente vengono scritte a più mani o comunque con la collaborazione, se non tecnica, comunque di parere, insomma, di una comunità piuttosto vasta. E nell'ambito appunto della discussione nella comunità che sta dietro alle Creative Commons e l'interazione con la comunità di Debian, si è riservata la possibilità di una distribuzione parallela in un futuro, ma non in questa versione numero 3. Quindi sostanzialmente le Creative Commons al momento chiudono la porta ai DRM. E per facilitare la creazione della licenza che va allegata alle proprie opere, esiste il sito labs.creativecommons.org, dove è possibile costruirsi proprio via web con un'interfaccia grafica, una specie di puzzle che fa vedere le varie componenti, costruirsi la licenza a seconda di quello che si vuole concedere agli utilizzatori. E dopodiché la pagina genera automaticamente il testo da allegare alla propria opera, sia essa un contenuto web, un CD, una fotografia o qualsiasi opera. Cambiamo argomento e con una notizia di questi giorni, appunto, dove un hacker, tale Atari Vampire, è riuscito a, dopo aver faticato un pochino, a trovare una chiave di criptazione, ovvero la chiave di criptazione del formato della criptazione AACS, ovvero il formato di criptazione dei nuovi DVD Blu-ray e dei nuovi DVD HD. Quelli che arriveranno tra poco forse nelle nostre case, non si sa. E in particolare questo hacker è riuscito appunto a trovare questa chiave, e questo permette di decrittare tutti i DVD HD e tutti i DVD Blu-ray presenti sul mercato fino ad oggi, semplicemente accedendo direttamente al disco e decrittandolo, e quindi potendo copiare tutto il contenuto e permettendo quindi una fruizione libera dalle limitazioni imposte appunto da questi formati alla copia e alla duplicazione dal formato DVD HD e del formato DVD Blu-ray. Quindi gli unici a subire le limitazioni di Windows Vista saranno quelli che non utilizzeranno i sistemi DAACS, viste le limitazioni per il trasferimento digitale, esatto, delle immagini. Ricordiamo che queste limitazioni sono presenti soltanto per coloro che hanno correttamente comprato questi. Hanno il DVD originale, l'HDVD originale. Originali che assurdamente non possono nemmeno copiarlo. E facciamo anche, sì, in chiusura facciamo anche un po' di autopromozione, per quel che vale. Allora, al Circo Lab stiamo organizzando per a breve due corsi di Linux. Allora, saranno due corsi di 10 lezioni con due target abbastanza differenti. Un corso base che è diretto agli utenti che vogliono imparare sostanzialmente a utilizzarlo come computer di casa in maniera del tutto analoga a Windows, che sostanzialmente vogliono vedere come si installa, come si configurano le periferiche più semplici, come si utilizzano i software più comuni, come OpenOffice, la grafica, eccetera. Gli equivalenti dei software presenti su Windows che invece sono presenti sotto Linux. Esattamente. E più alcune nozioni di base riguardo alla licenza e la storia di Linux. Il secondo invece è dedicato a chi ha già questa infarinatura e che voglia di scoprire un po' di più le potenzialità del sistema Linux e anche delle sue funzioni un po' più nascoste o che comunque non compaiono dall'interfaccia grafica, quindi anche con la possibilità di avere strumenti potenti e molto rapidi e leggeri. I due corsi si terranno presso la sala Proteus, della Camera del Lavoro di Brescia, per questioni di spazio più che altro. Il costo dovrebbe essere, anzi sarà di 80 euro per le 10 lezioni. Ricordiamo che nessuno dei docenti è pagato, ma sono soldi che vengono utilizzati per sostanzialmente pagare l'autofinanziamento del circolo. Del progetto numerica. Se volete vedere più in dettaglio il programma, andate sul sito del Circo Lab, www.circolab.net, cliccate su corsi, esatto, sulla sinistra compaiono i corsi. No, la colonna centrale direi, sulla sinistra compare qualcos'altro mi sembra. Sì, no, ci sono anche i corsi. Okay. Oppure mandate una mail se volete iscrivervi a cialtroni@circolab.net. Oppure corsi@circolab.net. Oppure circo@circolab.net. Se volete invece scrivere a noi, radio@circolab.net. E poi Alessandro sai benissimo dove... No. Abbiamo anche il nostro sito radio.circolab.net dove si possono anche scaricare le puntate di Cialtroni nello spazio. E per questo dobbiamo sempre ringraziare il nostro caro agente nell'ombra Carletto. Mercoledì prossimo alle 12.40 una nuova puntata di Cialtroni nello spazio, sempre su Radio Onda d'Urto, su queste frequenze insomma. No, potevo dirlo, lo dici tu, va bene. No, va bene, io, va bene. Va bene dirlo così, insomma. Non ho anche detto l'attimo di informazione questa volta. No, infatti.